Questa mattina mi sono accorto della gigantesca differenza tra la persona che avevo conosciuto al lavoro e quella che ho incontrato per caso. Non so se vi è mai capitato di incontrare il vostro capo fuori dall'ufficio e scoprire una persona diversa. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa era di 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Nonostante tutto, nonostante il grigiore che entra anche qui nella sera del sole 24 ore, nonostante tutto sono qui come tutti i giorni. Oggi è il 2 ed è il giorno dei santi. Dei morti. Ieri erano i santi e oggi è il giorno dei morti. Buongiorno a tutti, questo è il 2 di novembre. Questa mattina sono andato a pagare una bolletta alla posta. E adesso vi racconterò cos'è successo. Prima di andare a pagare la bolletta in posta ho dovuto cercarla la bolletta, che è sempre, diciamo, la cosa più problematica per quanto mi riguarda. Che tutti mi dicono, fai la deviazione bancaria. Però quando fai la deviazione bancaria ti sembra di non avere mai sotto controllo quanto spendi. E quindi preferisco andare in posta a pagare le bollette. Mentre cercavo questa bolletta ho trovato delle cose che appartenevano a un passato nemmeno troppo remoto, abbastanza recente, che non sono dei veri e propri diari, perché non ho mai tenuto proprio un diario scritto, però erano delle pagine sparse che mi avevo appuntato in momenti particolari della mia vita. Oggi avrei voluto leggervele, però mi prendo un po' di tempo per farlo. Credo che lo farò domani, perché prima devo capire che cosa posso leggere e che cosa no. Però visto che alcuni di voi hanno già cominciato a mandarmi dei pezzi di diario, che in realtà non sono dei veri e propri diari, perché le storie che mi avete scritto sono storie che mi avete scritto per farmele leggere. Se però avete voglia, visto che domani io farò esattamente questa cosa qui, leggerò dei pezzi di un mio diario privato di qualche anno fa, se voi avete voglia di cercare tra le vostre cose scritte, possibilmente magari già scritte in maniera telematica e che quindi avete lì sul vostro computer, avete voglia di condividerle e magari di leggerle o farmele leggerle, scrivete a iosonoqui@radio24.it. Visto che domani ho deciso di dedicare questa puntata tutta alla lettura di questi miei diari passati e magari anche ai vostri, iosonoqui@radio24.it, altrimenti mi mandate un messaggio al profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. Bene, dopo aver trovato questo diario che ancora devo spulciare per bene, lo farò questa sera, prima o dopo la partita, sono andato alla posta. La posta è un luogo che non capisco mai se è tra il meraviglioso e il devastante. E ho fatto un incontro in posta, ho incontrato il mio capo, quello che è banalmente il mio capo. Quando poi sono venuto in radio ne ho parlato con Tiziano Bonini e con Laura Faggin, che oggi sostituisce degnamente Vittoria Mussini direttamente dall'Africa. Laura Faggin, non Vittoria Mussini. È venuta fuori la questione proprio di come ci si comporta diversamente quando si è fuori contesto, no? Per cui tutti quanti ci siamo raccontati storie di quando abbiamo incontrato non solo il proprio capo al lavoro, ma anche un collega che al lavoro è in un certo modo e poi lo incontri in vacanza al cinema ed è in tutt'altro modo. E di solito succede qualcosa quando fai questi incontri, ma vale per tutti, vale per tutte quelle figure che hanno una certa autorità e autorevolezza, no? Il preside, ad esempio, quando si è bambini e poi lo si rincontra dopo anni sulla spiaggia, oppure il prete del paese. Oppure un politico, Tiziano proprio mi ha raccontato, chi è che Veltroni, si può dire Veltroni? Beh, è una battuta. Ha incontrato Veltroni a New York, mi pare, ed è venuto fuori che erano in coda e Veltroni non sapeva parlare l'inglese. Però Tiziano ha fatto finta di niente, giusto? Ha fatto finta di niente, come se non lo conoscesse. 800240024 oppure 349-238-6666. Ad esempio, Annalisa mi ha scritto sul profilo Facebook: io ho incontrato il mio vecchio psicoterapeuta ad un convegno. Istrionico, narcisista e farfallone, ma questo lo sapevo già. Strafottente e anche piuttosto insicuro di sé. L'ho rincontrato alla stazione della metro di Bologna, direzione Termini. Ah no, alla metro Bologna Roma, direzione Termini, e non mi sono avvicinata, l'ho osservato da lontano. Primario di una ASL romana, premetto. Era molto impacciato, era disorientato, era quasi fuori luogo. La seconda volta mi ha fatto quasi tenerezza, la prima tanta rabbia. E poi Marcello invece, un giorno all'uscita del lavoro ho tamponato il mio super direttore generale nonché amministratore delegato della ditta dove lavoravo. Sono sceso e puoi immaginare la mia espressione quando è sceso anche lui dalla macchina. Gli ho detto qualcosa come: salve, sono io, meno male che non si è fatta niente la macchina. Lui mi ha guardato con un cenno d'approvazione con la testa, è risalito sull'auto ed è ripartito. Qui non è successo nulla, però di solito in questo questi incontri, come è successo a me, capita qualcosa di più. 800 24 00 24, 349 238 6666. E prima, parlandone così in un chiacchiericcio generico in redazione, è venuto fuori una cosa che mi ha fatto leggere Tiziano, che è molto interessante, anche, e non è nemmeno particolarmente complicata. Racconta di questo sociologo, direi, giusto? Che si chiama Erving Goffman, che è canadese, che ha scritto proprio una cosa riguardo la drammaturgia e le istituzioni totali nella vita quotidiana. La sua opera è La vita quotidiana come rappresentazione. E fondamentalmente dice questo, lo leggo chiaramente perché è inerente, altrimenti sarei un imbecille a farlo. Secondo Goffman, la vita sociale può essere intesa nei termini della rappresentazione teatrale e muove dal presupposto che quando un individuo è in presenza di altri, abbia molte ragioni per cercare di controllare le impressioni che esso ricevono dalla situazione. Il nostro agire insieme con gli altri non è solo strumentale, diretto al raggiungimento di determinati fini, ma è anche condizionato da come si vuole apparire agli altri. Ecco che l'azione viene posta in essere come una vera e propria rappresentazione, cioè chi agisce, l'attore, usa intenzionalmente o involontariamente un equipaggiamento espressivo di tipo standardizzato, cioè la facciata. Sia che un attore onesto desideri comunicare verità, sia che egli sia invece un impostore. Ambedue devono punteggiare le loro rappresentazioni con espressioni adatte, escludere quelle che potrebbero screditare le impressioni desiderate e badare che il pubblico non attribuisca significati non voluti a ciò che trasmettono. Questo per quanto riguarda chi agisce e quindi chi fa delle robe, ad esempio un capo sul posto di lavoro. Poi dall'altra parte c'è il pubblico, che sono quelli che lo guardano, il capo al posto di lavoro. Nella vita quotidiana, dinanzi al singolo, non vi sono solo altri singoli, ma vi è piuttosto una serie di raggruppamenti che possono anch'essi essere utilmente spiegati attraverso la metafora del teatro. L'attore agisce come su un vero e proprio palcoscenico, dove si distingue una ribalta, che è il luogo dove l'attore mette in atto la propria rappresentazione, ad esempio il posto di lavoro. E poi c'è un retroscena, che è il luogo dove l'attore dismette i suoi panni di teatrante e mette in scena se stesso. Il retroscena può essere la casa, un luogo privato, oppure, mi viene da dire, anche l'ufficio delle poste. 800 24 00 24, 349 238 6666, per tutti quelli che abbiamo definito gli incontri fuori contesto: il vostro capo, un vostro collega, il preside della scuola, il prete, un politico. A me stamattina è successo in posta ed è successo così. Mio cognato, il marito di mia sorella, il Lele, è un grandissimo appassionato della Svizzera in tutte le sue forme. Il suo amore nasce innanzitutto dalla loro puntualità, però poi con gli anni si è diffuso un po' tutti gli ambiti della vita quotidiana. È strano perché in Lombardia l'aggettivo svizzero è sempre stato usato un po' come sinonimo di sfigato, anche se non ho mai capito il perché. Lui invece adora tutto della Svizzera: il cibo svizzero, i treni svizzeri, soprattutto quello rosso, quello che va con la cremagliera su Bernina. Poi gli piacciono i vini svizzeri, i paesaggi svizzeri, gli architetti svizzeri, ma soprattutto lui ha una passione per le poste svizzere. È un legame viscerale, è iniziato per motivi di lavoro, e di tutti quelli che ho nominato, in realtà è obiettivamente più comprensibile, no? Cioè, è chiaro che il fatto che un servizio di questo genere qui, semplice, che è direttamente rivolto al cittadino, è il genere che in Italia è destinato a fallire per primo. E in Svizzera, invece, o come dice mia nonna, in Svizzera, è perfetto. Precisione, puntualità e gentilezza. Le poste funzionano dove queste caratteristiche sono diffuse e radicate. Le poste svizzere gestiscono tra l'altro anche i trasporti pubblici fin dalla metà del 1800. I loro furgoni gialli consegnano tutto quello che c'è da consegnare. E poi fanno anche un sacco di altre cose utili, tipo distribuire delle buste nelle quali tu puoi inserire le tue cartucce della stampante usate, spedirle gratuitamente e dopo 2 giorni ti ritornano a casa rigenerate. Ti offrono quindi un gran risparmio e soprattutto ti regalano la sensazione di salvare il pianeta, che non è mai male. Stavo pensando esattamente a tutte queste belle cose questa mattina mentre me ne stavo in coda in un ufficio postale, di cui non dirò l'indirizzo, qui a Milano. Dirò solo che è uno dei pochi rimasti dove non ci sono i numerini, quelli per cui si salta la coda, e quindi la coda te la fai tutta. Certo, non sono più quelle esperienze massacranti, tipo le file che c'erano prima che iniziassero ad usare il sistema dei numerini, però è sempre stare in piedi, in mezzo a gente che non conosci, in attesa di pagare una bolletta. Stare in coda poi è scomodo, ma a dire la verità ci consente di conoscere mondi che altrimenti non potremmo mai incontrare. A stretto contatto con il resto dell'umanità puoi ascoltare telefonate, puoi percepire dei profumi, degli odori, vedere perché cosa pagano e quali multe hanno preso le persone. E se ti va di parlare, puoi perfino scambiare delle opinioni. In realtà non sono il tipo che attacca bottone, però c'è qualcosa di piacevole nell'essere tutti al di qua del bancone con dei foglietti di carta in mano. Appiattisce le differenze sociali, anche perché le piccole ma delicate commissioni sono quelle che perfino le persone ricche, quelle influenti, non sto dicendo i capitani d'industria, dico solo le persone un po' ricche, un po' influenti, ecco, quelle sono le tipi di operazioni che nemmeno loro delegano. Che forse è così che sono diventate ricche, non lo so. Non è comunque un caso che ci abbia trovato lì il direttore della mia radio, proprio in coda, poco davanti a me. Sì, proprio lui. E me ne sono accorto perché ho riconosciuto la sua voce che borbottava qualcosa, qualcosa che tipo che qualsiasi fila scegliesse alla fine era sempre quella più lenta, che è la stessa cosa che penso sempre anch'io. E lì quindi mi è stato subito simpatico. E mi ha sorpreso perché lo diceva ad una persona con un vestito a fiori e dei modi molto semplici, e ci chiacchierava. Insomma, ho scoperto una cosa molto semplice, che il mio capo è un essere umano. Oggi nelle poste non rubano più come prima. Ci sono le doppie porte come in banca, ci sono le telecamere e dispositivi che gettano inchiostro sui soldi. E poi c'è il bancomat, quindi i contanti sono pochi. Insomma, se fossi un ladro sarei molto depresso. Non ci sono nemmeno più i vetri antiproiettile sul bancone. Che tra l'altro io avevo sempre creduto che quei vetri lì servissero a impedire che i disperati clienti, stanchi di infinite attese, prendessero l'assalto intero dell'ufficio in una sorta di ammutinamento generale. Mi sbagliavo, ovviamente, come al solito. Il mio direttore stamattina è stato molto gentile, molto affabile. Non mi sono fatto riconoscere subito, per poter meglio spiare mentre stava in coda, cosa che peraltro faccio sempre, anche con gli sconosciuti. Però quando lui ha pagato il suo canone trimestrale a qualcosa che non vi dirò per motivi di privacy, prima che uscisse gli sono andato incontro. Lui appena mi ha visto si è un po' spaventato, però poi ha capito che era stato solo il caso a metterci in quella situazione e non l'avevo pedinato dentro ad una posta, e quindi si è un po' lasciato andare. Ha atteso che io finissi la mia commissione e mi ha invitato a bere un caffè insieme. Ci siamo parlati. Abbiamo anche superato certi nostri contrasti e siamo arrivati perfino a discutere di cose importanti e quasi personali. Lui mi ha fatto dei complimenti dimostrando molto rispetto e anche un po' di benevolenza. Io gli ho riconosciuto dei meriti che mi sembravano evidenti. Forse è stato anche merito della coda alla posta, insomma non lo so. Però una volta terminata la nostra chiacchierata al bar ce ne siamo andati ognuno per la propria strada e io sono rimasto con una generale sensazione di serenità. Poi di colpo, quando ormai stavo pensando ad altro, mi sono accorto della gigantesca differenza tra la persona che avevo conosciuto al lavoro e quella che ho incontrato per caso. Cioè, davvero siamo tutti così diversi a seconda di dove siamo? Davvero siamo odiosi oppure simpatici a caso, a seconda di dove ci troviamo? E il carattere dov'è allora? Ma io poi, ad esempio, sono veramente così mutante? Oppure era forse stato il mio occhio a vederlo benevolmente in un contesto in cui non rappresentava l'autorità, però del mio capo, ovviamente? Non lo so, ancora non mi sono dato una risposta. Dovrei prenderla semplicemente come una bella cosa, probabilmente. Aver appianato i miei problemi col direttore. Invece, come al solito, ne vedo il lato problematico. Vabbè, sono sempre fatto così. O perlomeno, oggi sì. Oggi io sono così. E a voi? È mai capitato di incontrare il vostro capo fuori dal lavoro e avere scoperto una persona diversa? Stai comodo là dentro? Ecco allora, immaginate di esservi svegliati dopo essere stati feriti da una pallottola, di svegliarvi in un ospedale e la terra attorno a voi è stata devastata. Tutto è distrutto, ci sono morti dappertutto, ma soprattutto ci sono degli zombie. Degli zombie che cercano di mangiarvi. e voi state scappando da tutto, scappate dalla vostra città, scoprite che c'è una città in cui probabilmente ci sono delle altre persone che sono vive come voi e volete raggiungerla. Poi arrivate in questa città e gli zombie sono molto di più di quanto immaginavate. Riuscite a rifugiarvi in un carro armato che è stato abbandonato lì da un militare e quando avete quasi deciso di farla finita, sentite quella vocina lì, quella vocina che vi parla ad una radio. Questo è quello che è accaduto ieri sera nella prima puntata di una serie americana che si chiama The Walking Dead. Ehi tu! Coglione! Sì, tu nel carro armato. Stai comodo là dentro? Insomma, non so se avete la possibilità di vederla, però un modo lo trovate. È una, appunto, è una serie americana che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti, che ieri sera è stata presentata, credo, alla stessa ora, nello stesso giorno in tutta Europa. È una roba che ha a che fare con gli zombie e con i mostri. Roba che a me personalmente non piace, però è una roba che ti tiene lì. 800 24 00 24 349 238 6666. Ritorniamo a parlare del capo e dei vostri personaggi istituzionali fuori contesto, perché mi hanno scritto: alle 3 di mattina incontro in un bar uno dei soci dello studio in cui lavoro, al bancone, visibilmente distrutta dall'alcol, racconta a sconosciuti pessime barzellette. Non è stato bello. Fra, che credo sia Francesco, il prete in un locale alle 2 di notte vale? Guarda Fra, se è vero, vale. Se non è vero, vedi tu. Poi tra i messaggi invece che mi sono arrivati prima su Facebook, me ne è arrivato uno in particolar modo di Giorgia che diceva: il mio capo, noioso, vecchio e anche un po' prolisso. Frequentato fuori dal lavoro, si è rivelato diverso, ma talmente diverso che l'ho sposato. Ma prima mi sono licenziata. Pronto Giorgia? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, mi racconti? A differenza del prete è tutto vero. Come, scusami? A differenza del prete. Ah, a differenza del prete, vero. Ma non sappiamo se è tutto vero però la storia del prete. Invece raccontami che lavoro era, perché poi tu ti sei licenziata prima di sposarlo. Sì, sì, assolutamente sì. Che cosa facevi esattamente? Allora, io riportavo direttamente a questo signore che era l'amministratore delegato, ci occupavamo di informatica. Sì. Un signore gentile, un signore decisamente... Ma scusa, per signore cosa intendi? Quanti anni più di te? 10 anni più di me allora, adesso sembrano molto meno, ma allora erano 10 e si vedevano tutti. No, ma anche adesso sono 10 però. Sì, cioè, sì, nel senso che non è che sono aumentati. Lui. Quanti anni avevi tu o quanti anni aveva lui, scusami, all'epoca? Io ne avevo 25 e lui 35. Ah, ok. Bene, mi è calata un po' di depressione, hai visto Faggin? Te ne sei accorta anche tu di là dal vetro, hai notato? Brava! Scusa, torniamo a noi Giorgia, torniamo a noi. Quindi dicevamo, hai incontrato questo signore che era il tuo capo. All'epoca era un signore, sì. Sì, perfetto. Adesso è un ragazzino. Benissimo, tutto merito tuo. L'hai incontrato fuori dal lavoro dove? Allora, l'ho incontrato prima al lavoro, un signore decisamente competente e grigio, parecchio grigio, di quelli... Lo definivamo in ufficio sexy come una pallina di naftalina, per intenderci. Benissimo, mi dici che lavoro fai, che lavoro facevi? Facevo l'informatico. Ah, giusto, ok, me l'avevi già accennato. L'hai Uno incontrato poi grigi. Poi fuori dove? Dov'è che sei incontrato fuori dal lavoro? Allora, ci siamo incontrati fuori dal lavoro durante trasferte di lavoro. Abbiamo tritato un sacco di chilometri in macchina insieme. Quanto... E in queste trasferte l'ho scoperto. E com'era? Non era grigio? Com'era, Giorgia? Era un arcobaleno di colori. Era tutt'altro che grigio, era assolutamente tutt'altro che grigio. Siamo partiti dalla musica, ci piaceva la stessa musica, in macchina ne ascoltavamo a valangate, però nonostante i gusti musicali simili io facevo ancora fatica a vedere il bronzo di Riace che c'era in lui. Bene. Ancora troppe alghe e cozze attaccate. Non bastano due canzoni, no, per scioglierti. Esatto. Senti, dimmi quanto ci avete messo da lì poi a sposarvi. Allora, io ci ho messo circa 5 anni a scoprire che aveva un bel sedere e che non era l'estensione della poltrona della sala riunioni. Va bene, Giorgia, dimmi quando vi siete sposati, quanto tempo è passato? 10 anni dopo. 10 anni dopo. Adesso sì. Avete anche una figlia, l'ho visto sul tuo profilo Facebook, sono andato a sbirciare. Abbiamo un Matteo anche noi, esatto. Wow, perdonami, un figlio. Posso, un bimbo. Possiamo, visto che ne hai parlato come di un losco figuro di questo signore, se gli ascoltatori non vogliono andare a sentirlo, c'è il tuo profilo Facebook, si vede, giusto? Sì. Ok, Giorgia, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, salutami lo Scofiguro. C'è una persona qui in radio che non è proprio il mio capo, ma per la quale io ho una sorta di venerazione per le sue grandi capacità nel dire cose che io non capisco. È Deborah Rosciani. Buongiorno, Deborah. Buongiorno. Deborah, quando tu parli mi si apre un mondo per me totalmente sconosciuto. Non so se essere terrorizzata da quello che stai dicendo. Fatto di più e di meno. O lusingata. Assolutamente lusingata, perché poi ti ho visto fuori contesto giù al bar e sei una persona normale, a differenza... Per piacere, lo vuoi dire a tutto il mondo che pensano chi sia chissà quale entità, quale zombie finanziario stravagante? È perché secondo me usi troppi termini... Devo dici alleggerire un po'. Devi alleggerire un po'. Guarda, proverò a raccontarti la borsa in termini molto semplici. Guarda. Sai qual è la mia borsa preferita? Qual è? Una Vuitton, una Gucci, quindi sono una donna come tutte, vi prego, credetemi. Facciamo così, mandiamo la pubblicità e poi la borsa in diretta con Deborah Rosciani. Io sono qui. Nella foto siamo in una piazza italiana insieme a una ragazza. È una piazza italiana, si vede perché ci sono i ciottoli per terra e c'è l'ingresso di una chiesa, quindi potrebbe essere qualsiasi piazza italiana di una tipica città paramedievale, pararinascimentale del centro Italia, ma no, ma anche del nord e del sud. Però il soggetto di questa fotografia è una bella ragazza, una ragazza con i capelli lunghi, una lunga treccia, è vestita di nero, una canottiera e dei leggings, direi, che sta guardando l'obiettivo ed è su una bicicletta. È su una bicicletta da uomo, però, e ha una borsettina attaccata al manubrio. Ha su dei sandali, anche un po' vezzosi. Cioè, più che sandali sono due strisce di cuoio, direi, ma è una suola. È chiaramente estate e... a giudicare dal fatto che sta andando in giro in bicicletta, direi che siamo in Emilia Romagna. Mi chiamo Ilaria Trombini, ho 26 anni e sono di Ferrara. E dato che vivo nella città delle biciclette, eccomi in sella alla mia bici a spasso per il centro. Mia son chi? Io sono qui. Mia son chi, ha detto Ilaria. Bravi Ilaria. Per tutti gli uomini all'ascolto, andate a vedere la foto sul profilo del programma radio24.it/io sono qui. Mia son chi, come direbbe Ilaria. È subito arrivato un messaggio per Deborah Rosciani. Adoro Deborah proprio perché riesce a portare a livello umano argomenti sovrumani. Ed è incredibile, ed è una persona normale, l'ho vista mentre lo faceva. Io ho seguito mio marito al lavoro un giorno, mi è sembrato molto diverso dalla persona che conosco, scoperta inquietante. Ah, no, Luisa, ringrazierei il cielo che sia diverso da come lo conosci a casa. Siamo in un'azienda di 500 persone. La responsabile... Ragazzi, questa però non è un'agenzia matrimoniale. Siamo in un'azienda di 500 persone. La responsabile risorse umane è single. Mi piacerebbe incontrarla per caso fuori. Non penso di esserle indifferente. Remo, allora, innanzitutto... Da cosa capisci che non la sei indifferente? Secondo, incontrarla per caso non esiste, fai finta che sia per caso, giusto? Io ho un superiore che balbetta e strilla per ogni cavolata. Sul lavoro è sua abitudine dare sempre dell'imbecille a chiunque, anche a chi è più anziano e esperiente. Esiste esperiente come sostantivo? Come aggettivo, per esempio. Fuori ci siamo incontrati spesso di sera con le nostre donne ed è anche un gran simpaticone. Chissà perché non riesce a comportarsi nella stessa maniera. Otterrebbe molto di più. Luca, e poi è arrivato questo messaggio che diceva: io ho incontrato l'austera responsabile del personale della mia azienda in una spiaggia naturista in Croazia. Come non chiamarlo? Pronto, Mauro? Sì. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Senti, innanzitutto mi dici che tipo di azienda è quella in cui lavori? Una media azienda, ramo informatico, diciamo. Quindi servizi? Sì. Cioè non producete nulla? No. E lei è responsabile del personale? Sì, esatto. Cos'è? Esatto. Hai paura che ti riconosca, Mauro? No. Hai dato un nome finto, ovviamente, tu non ti chiami Mauro, giusto? Esatto. Bravissimo, esatto. Bravissimo, vedo che hai capito. Senti, dimmi però che cosa vuol dire che lei è austera? Professionale in maniera assolutamente... Ma ti stai imboscando in un cassetto, Mauro, perché non sento niente. No, di quello che... sono in macchina con la viva voce. Ah, ok, perfetto. Comunque adesso vediamo di... Cioè tipo che si veste sempre si veste di scuro? Sì. Si veste quantomeno? Al lavoro. Al lavoro si veste. E dov'eri invece quando l'hai incontrata? In Croazia, su delle isolette, diciamo, zona... Ma anche tu fai naturismo, quindi? Sì. Che per chi non lo sapesse è nudismo. C'è una differenza tra nudismo e naturismo? Sì, secondo... secondo, beh, per me, a me piace molto il... Oddio, allora, c'è chi... No, dico predilige... proprio terminologica, Mauro, sì. Scusami, da un punto di vista, diciamo, di definizione. Diciamo, non lo so bene, okay. Perché non appartengo a nessun gruppo organizzato, nessuna filosofia particolare che di quelli che magari prediligono. Vabbè, vabbè, insomma, o, fondamentalmente, ecco, si sta, c'è senza un costume. Un che esatto, un posto, okay, che senti, lo consente senza disturbare nessuno. Certo, va. Mi dici però che cosa è accaduto? Vi siete parlati, vi siete salutati, avete fatto finta di niente? Beh, io che sono abbastanza un figlio Androcchia, ho fatto in modo che non potesse evitare di salutarmi, insomma. E poi, perché il posto, la spiaggia era abbastanza piccola, era quasi impossibile non... E da lì il vostro rapporto sul lavoro è cambiato? Beh, abbastanza cambiato, non nel senso, non che ci siano state delle evoluzioni particolari, però ecco, beh, diciamo che la tenevo in un certo senso in pugno, in scacco, perché conoscevo qua, beh, e poi avete semplicemente una cosa in comune che non è nulla di male, ma che no, no, quanto... è un po' come però... ti fare la stessa squadra. Mauro, grazie, sì, mille, sì. Buona giornata. Altro, ciao, certo, alla prossima, certo. Ciao, grazie, certo. Andiamo a Torino da Valentina. Pronto, Valentina? Ciao Matteo. Ciao, stai bene? Sì, sì, tu? Brava, anch'io sto bene. Valentina, complimenti, tu... per la tua trasmissione, che è molto stimolante e originale. Va bene, ti ringrazio. Stimolante e originale, me li segno. Grazie, Valentina, sì. Sei gentilissima. Andiamo però al punto. Sì, io ho incontrato... 2 o 3 anni dopo il diploma la mia preside a un corso di flamenco ed è stato divertente perché automaticamente, vabbè, ci siamo riconosciute subito, lei, vabbè, ha fatto un po' più di fatica, sì. Però subito le barriere si sono annullate, quindi ci siamo ritrovate improvvisamente allo stesso livello. Ma dandovi del tu anche, ad esempio, no? No, vabbè, non c'è stato modo di parlare perché seguivamo la musica, poi battevamo tacco e pianta al ritmo della musica, è stato carino perché eravamo una di fronte all'altra e così, niente. Sì, e ballava bene lei? Ma lei era un po' ingessata, vero. Però vabbè, comunque sciolta, non sembrava imbarazzata dalla mia presenza, vabbè, poi non, di fatto non era più la mia preside perché ero già uscita dalla scuola. Ma però quanti anni fa era, Valentina? Ti parlo di 15 anni fa. Cosa fai adesso? La ballerina, sì, del flamenco? Adesso, no, no, no, era un corso così. No, no, adesso lavoro e faccio altri sport. Non ho poi proseguito il, senti, flamenco. Senti, prima di salutarmi, mi dici un altro Ebon, che giusto a Torino viene così bene? Un'altra? Ah, Ebon. Ebon, perfetto, grazie Valentina, ciao, prego, buona giornata. Ciao, ciao. Rimaniamo a Torino, Ebon da Giampaolo. Pronto Giampaolo? Ciao. Ciao, ciao Matteo. Stai bene? Sì, benissimo. Bravissimo. Aspetta, intanto, visto che ci siamo, mi dicono che esperiente è un aggettivo che vuol dire esperto, per cui benissimo. Grazie a Laura Faggio. Non sei convinto, Giampaolo? Non sono convinto. Non sei convinto, però... Andrò a controllare. Guarda, ha controllato Laura Faggin. Andiamo invece nella cascina, dove stavi uccidendo un coniglio. Ma no, è successo così. Io lavoravo presso un'azienda in uno stabilimento fuori dalla città, no? E avevamo scoperto una cascina dove c'era la signora che coltivava... tante belle insalatine, tante proprio roba fresca. Sì. Uno usciva dall'ufficio, si andava lì, ti preparava la busta, si pesava, si pagava, proprio te la, sì, coglieva davanti. Sì. Allora un giorno vedo dei conigli lì e dico, ma signora, mi darebbe anche un coniglio? Sì, sì. Quindi con tanta fatica, rincorrendolo, ne ha preso uno. Poi mi dice, ma... purtroppo non c'è mio marito che li prepara, non saprei come fare. Io che pure non sono un matador di conigli, devo essere sincero. Cioè non lo fai di mestiere, Giampaolo? No, assolutamente. Mm? Avevo visto però farlo parecchi anni fa. Allora l'ho preso per le zampette posteriori, quell'altro ha sollevato la testa e gli ho dato il colpetto. Noi non è che veniamo denunciati per questo racconto, visto abbiamo... illustri precedenti. Vabbè, insomma, Giampaolo, però il coniglio l'abbiamo ammazzato. Andiamo avanti. In quel momento, sì? In quel momento entrava là nella cascina il mio direttore, che solitamente era molto autoritario. Chiaro, chiaro. Lo dice, si sente anche dalla tua voce, era autoritario, insomma. No, lui era autoritario. Sì, sì, sì, ho capito, ho capito. Comunque, mi vede così, è rimasto stranulato. Da quel dì ha cambiato atteggiamento nei miei confronti. Senti, il suo direttore di che cosa? Di banca? No, dello stabilimento dove lavoravo. Giampaolo, scusami, un'ultima cosa. Tu chiaramente non lo fai di mestiere, scusami, non lo fai di mestiere perché mi dici che lavoravi in uno stabilimento, però tu sei un po' attore dentro, Giampaolo. Può darsi, perché? Perché si sente, non hai tipo una filodrammatica a cui partecipi, avresti secondo me un futuro. Ma sai cos'è? Io Dimmi. Adesso che ho lasciato il lavoro mi occupo di associazioni di volontariato. Okay, dove faccio un sacco di cose, organizzo immagino. E questo naturalmente crea una... chiaramente, insomma, devi parlare in pubblico e stare chiaro, starei ore a sentirti, Giampaolo. Ti ringrazio io starei tutto il giorno. Bene, siamo in due, però adesso purtroppo io devo chiudere, quindi ti saluto e ti ringrazio, Giampaolo. Grazie Matteo, buona giornata. Grazie mille. Torniamo indietro di circa un mesetto e mezzo fa, quando, parlando di matrimonio, io parlai al telefono con una ascoltatore, con un ragazzo che ascoltava il programma, che si stava provando in quel momento l'abito per il proprio matrimonio. Com'è il tuo vestito? Descrivicelo. Nero e bronzo. Scusami, nero e? Bronzo. E bronzo. Nero e bronzo. Quella cosa mi colpì fortemente, mi rimase impressa per tutto il tempo, e chiesi a quell'ascoltatore, che poi si chiama Luca, di mandarmi una foto e farmi vedere questo capo di nero e bronzo, ma soprattutto di raccontarmi come andava. Pronto Luca? Pronto, ciao Matteo. Allora, innanzitutto, come sei uscito da quell'abito nero e bronzo? Sono uscito bene perché stavo bene, avrei visto anche le foto. Infatti ho visto le foto, chiaramente tu sei di Brescia. No. Sei di Bergamo? Vabbè, niente. Mi sa che adesso mette giù. Luca, scusami, hai ragione. Però foto e moto lo dite in quelle due città lì, nel mondo, non è colpa mia. Se, ah, ok. Se. Quindi, Luca, raccontaci velocemente com'è andata, perché poi tu mi hai mandato le foto anche sul mio profilo Facebook e dopo magari le ricarichiamo in modo che siano in testa tutto e la gente le possa vedere. Luca era effettivamente elegante, con questi bei capelli lunghi biondi, perché così sei, giusto Luca? Biondeggiante, sì, un po' sì. Sei tinto? No, nel senso ho i capelli castani più che sul biondo. Dimmi però la reazione di tua moglie quando sei presentata con l'abito nero e bronzo. Sentire mia moglie già mi fa un certo effetto, visto che le sto sentendo su una Madonna dietro l'altra, perché la chiamo ancora amorosa. Comunque è stata contenta e, come hai visto sulle foto, c'è anche una foto con lei che l'ho vista. Adesso guarda, le ricarico velocemente, Luca, però diciamo che da tutto ciò io ne esco con un insegnamento, che un matrimonio può funzionare anche con un abito nero e di bronzo. Grazie Luca. Perfetto, ciao, buona giornata, grazie. Anche a te, ciao. Io sono qui, @radio24.it, se avete voglia di spedirmi i diari che volete condividere con me e probabilmente con gli ascoltatori di domani, perché io domani leggerò un pezzo dei miei diari e mi piacerebbe leggere anche i vostri. Grazie a tutti, grazie a Roberto Scaltritti, a Stefano D'Andrea, grazie a Deborah Drosciani che è entrata con noi qui in studio, grazie a Laura Faggini, a Tiziano Bonini. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?